piscina, un amore dal passato è una luna, quadri e fiori, impressionismo, donne, risa, ritmo, voli e prati, platonismo, frutta e grida, disse sa, latte e caffè. Dentro il sogno, quello che c'è stato, prende la tua mano e va. Alle prime luci d'alba il fantasma se ne andrà, ma i cristalli nel mattino stellano. Nel caffè, schiuma il passato, corre dentro il sogno, quello che c'è stato, prende la tua mano e va, prende.